Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano con la grande attualità internazionale qui su Radio 24. Miriam Lucchetti in redazione con me a confezionare anche questa puntata, in regia a darle musica e ritmo. Quest'oggi c'è Roberto Scaltritti. E voi, gentili ascoltatori, potete commentare o fare domande via mail all'indirizzo nessunluogo@radio24.it, via sms se siete sintetici al 349-238-6666. Se vi piacciono i temi trattati, cliccate mi piace sul profilo Facebook nessunluogolontano-radio24. E infine, se sempre la sintesi è il vostro dono, cinguettate a nessunluogo24. C'è tanta carne al fuoco quest'oggi. Tanti temi da affrontare. Innanzitutto andiamo a Washington per quei negoziati che sono ripresi ieri sera dopo 3 anni di stallo. For 35 years, U.S. presidents have tried to broker peace between Israel and its neighbors. Well, basically this is hopefully the first day of negotiations between Israel and the Palestinians. We are hopeful. We believe that this is a mutual interest for Israel, for the Palestinians, the Arab world, the international. E così avete sentito la voce di Tzipi Livni, capo negoziatore israeliano. Così ieri sono ripresi i colloqui di pace tra israeliani e palestinesi. 3 anni di stallo, questa è, se vogliamo, la nuova scommessa di Obama, scommessa difficile. Adesso capiremo meglio perché innanzitutto le due delegazioni si riuniscono più che sui contenuti, poi ci entriamo, su di cosa discutere, come e dove. E questo, diciamo, è un primo, se volete, segnale di quanto complessa sia la roadmap di questi colloqui. Tra gli unici punti fermi ce ne sono almeno un paio. Primo, 9 mesi di negoziati. Secondo, nessuna soluzione di compromesso. Questo, almeno sulla carta, a fotografare meglio questo ennesimo incontro tra le due delegazioni ci aiuta Paola Caridi, giornalista, esperta di Medio Oriente, della questione e autrice fra l'altro del blog Invisible Arabs. Paola, ben ritrovata, Nessun Luogo Lontano. Grazie, anche perché ho passato questo periodo a scrivere appunto un libro su Gerusalemme, quindi... E fra l'altro Gerusalemme è proprio uno dei grandi, no, dei 4 grossissimi nodi che sono, sì, sul tavolo. Certo, lo status di Gerusalemme, e soprattutto se Gerusalemme deve essere poi nei fatti e non solo negli slogan che abbiamo sentito negli scorsi decenni la capitale di 2 stati, e quindi... non più un luogo che sia considerato solo da Israele la capitale eterna e indivisibile dello Stato di Israele, ma appunto se invece si rimette in discussione nei fatti lo status della città e che quindi possa essere anche la capitale di uno Stato di Palestina. Ecco Paolo, accennavo agli altri 3 grossi temi, 3 grossi nodi su cui si discute. Da un lato ci sono la questione dei confini, quello della sicurezza e infine la questione dei rifugiati. È utile però ricapitolare, dicevo, sono ripresi i negoziati dopo 3 anni, è utile ricapitolare la timeline di questo lungo processo di dialogo. Abbiamo tentato di fare una sintesi, ascoltiamola insieme. 1993. Dopo 6 mesi di negoziati indiretti a Oslo, l'Israele e l'OLP si riconoscono a vicenda. Stretta di mano storica fra il premier israeliano Yitzhak Rabin e il leader palestinese Yasser Arafat. 1994. Accordo sull'autonomia di Gaza a Gerico, Cisgiordania, patrocinata dall'Egitto. Israele si ritira dal 70% della striscia di Gaza e dall'enclave di Gerico. 1995, accordo Oslo II a Washington, estensione dell'autonomia palestinese alla Cisgiordania. 2000, vertice di Camp David patrocinato da Bill Clinton. Arafat e il premier israeliano Ehud Barak non trovano un accordo sui problemi del rientro dei profughi palestinesi e dello status di Gerusalemme. Di lì a qualche mese scoppia la seconda intifada. 2003, presentata la roadmap del quartetto. Prevede la fine della violenza palestinese e della colonizzazione ebraica e la creazione di uno Stato palestinese entro il 2005. 2008, Israele lancia l'operazione militare Piombo Fuso contro gli islamici di Hamas nella striscia di Gaza. L'ANP rifiuta di riprendere le trattative. 2010, ripartono negoziati a Washington, ma il dialogo fra il presidente palestinese Abu Mazen e il premier israeliano Benjamin Netanyahu si interrompe dopo che Israele riprende la colonizzazione dei territori occupati, malgrado le sollecitazioni USA per uno stop. 2011, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, si dichiara pubblicamente a favore di uno Stato palestinese fondato sui confini del 1967, vale a dire la Cisgiordania, la Striscia di Gaza e Gerusalemme Est. Ecco Paola, qui in sintesi la timeline di questi delicati e complessi colloqui che vi sono stati negli anni passati. La storia recentissima ci consegna intanto una cena fatta ieri a Washington tra le due delegazioni e poi, come riporta tutta la stampa, viene sottolineato quello che è il capo negoziatore americano Martin Indyk. Paola, aiutaci a capire che ruolo può avere il capo negoziatore statunitense e che background ha, perché da lì poi si capiscono tante cose. Ecco, questo potrebbe essere uno dei principali ostacoli, perché Martin Indyk non è considerato una persona neutrale da molti degli osservatori, da molti degli analisti e anche da qualcuno dei protagonisti. Martin Indyk ha una carriera diplomatica che vede anche il suo ruolo come ambasciatore presso lo Stato di Israele, ma questo non sarebbe certo un ostacolo. Vi è invece nel suo passato un ruolo dentro l'AIPAC e quindi dentro l'organizzazione cosiddetta lobby ebraica, ma insomma l'organizzazione più a destra nella rappresentanza del mondo ebraico, della comunità ebraica negli Stati Uniti, che questo sì potrebbe essere un ostacolo perché fa comprendere anche le posizioni che ha indica che ha avuto negli scorsi decenni. Questo susciterà nei palestinesi già reazioni non proprio così favorevoli, anche perché dobbiamo pensare chi sono i palestinesi che partecipano ai negoziati. C'è Saeb Erekat, che storicamente è uno dei più moderati dirigenti palestinesi dell'Autorità Nazionale Palestinese e dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ma qui parliamo di un quadro che è molto cambiato. Tanto è vero che l'idea che si possa arrivare a un compromesso senza ulteriori dilazioni è proprio perché tutti i protagonisti sanno che o si fa qualcosa adesso o la soluzione dei due stati, già secondo me impossibile sul terreno, diventerà veramente qualcosa che è nell'archivio della storia. Lo è già secondo me nei fatti, come dicevo, perché la soluzione dei due stati sui confini del 1967 è irrealizzabile proprio per la presenza delle colonie israeliane che sono state costruite e in cui abitano all'incirca 500 milioni di persone, mezzo milione di persone che sarà impossibile portare via dalla Cisgiordania e far rientrare dentro i confini dell'Israele del 1967. E dunque cosa ci si aspetta da un negoziato di questo tipo? Un compromesso sui confini, certo, un compromesso su un possibile scambio di terre, ma o si fa adesso o non si fa più, perché quello che succede poi dietro le quinte è una discussione in corso ormai da anni sulla possibilità dello Stato unico, cioè della One State Solution, Israele-Palestina, una Israele-Palestina in cui i diritti di tutti vengono rispettati, i diritti di cittadinanza, una soluzione questa che non sta per niente bene a Israele perché teme un aumento demografico, una crescita demografica così imponente da parte dei palestinesi da schiacciare la stessa ipotesi dello Stato ebraico di Israele. Ecco Paola, ti interrompo perché credo che tu abbia toccato uno dei punti fondamentali su cui si dibatte e si discute da anni, che è proprio il problema demografico, dell'implosione se vogliamo, no? Da questo punto di vista. Parlavi di scambio riferito alle terre, quello scambio invece, quella precondizione che Abu Mazen ha ottenuto, cioè la liberazione di ben 104 detenuti palestinesi, è una mossa mediatica, è una mossa che tu trovi sostanziale, cioè un passo avanti serio da parte della diplomazia israeliana o per così dire uso e consumo no, dei giornalisti? No, mi dispiace di essere come sempre un pochino tranchant ai miei giudizi, ma è una mossa mediatica necessaria per Abu Mazen, anche perché siamo alla fine del Ramadan e la liberazione dei primi palestinesi, detenuti palestinesi, sarà per la grande festa dopo il Ramadan, l'Eid al-Fitr. È una mossa mediatica perché Israele fece un accordo con Hamas, ricordiamo, 2 anni fa per la liberazione di 1000 detenuti palestinesi contro la come dire, la liberazione del soldato israeliano, sì, Gilad Shalit, e quindi non è possibile per Abu Mazen pensare a una ripresa dei negoziati senza che questo abbia come dire, come contropartita, come iniziale contropartita, almeno la liberazione di alcuni detenuti. Mi permetto di dire che i ben 104 detenuti non sono così tanti poi, se noi pensiamo a quanti detenuti palestinesi ci sono nelle carceri israeliane, molti in attesa di giudizio, e che poi c'è una parte nascosta ai più, e che invece per chi segue queste vicende è notizia quotidiana, e cioè che sì, vengono liberati questi detenuti, salvo poi molti di loro essere riarrestati dopo qualche giorno, qualche settimana o qualche mese. Nessun luogo è lontano. Israeliani e palestinesi, di nuovo allo stesso tavolo, quello di Washington, da ieri sera, per riaprire colloqui di pace fermi da 3 anni, con delle criticità che Paola Caridi, giornalista esperta di Medio Oriente, e fra l'altro ci ha dato notizia che sta per sfornare un nuovo libro su Gerusalemme, e ci sta aiutando a svelare. La prima, il fatto che il capo negoziatore americano Martin Indyk abbia un background di un certo tipo che potrebbe far irritare i palestinesi. Secondo, come dire, restituire a quella che è stata probabilmente una mossa mediatica la liberazione di questi 104 detenuti palestinesi. E poi c'è un terzo punto invece che solleva un ascoltatore, Marco, che chiede: vorrei sapere se il riconoscimento della Palestina come Stato osservatore all'ONU, lo ricordo è avvenuto il 29 novembre dell'anno scorso, possa influire sui colloqui. Paola? Beh, è la cosa sulla quale avevo riflettuto proprio quando si parlava nella scheda iniziale, si ascoltava la voce, credo, di Tzipi Livni. Sì. Che in inglese diceva Israel and the Palestinians, cioè Israele e i palestinesi. Sì. Ora può sembrare una cosa, un dettaglio. Un dettaglio lessicale, ma non lo è. Ma non lo è, nel senso che la lingua che usiamo esprime anche la nostra posizione ed esprime in questo caso anche uno degli scogli diplomatici. E cioè quando si parla di riconoscimento reciproco. Esiste uno Stato di Israele, esiste invece, punto interrogativo, uno Stato di Palestina, esistono i palestinesi. Ecco, questo è il vero scoglio, nel senso che su questo scoglio, per esempio, l'anno scorso, a novembre, si sono scontrati tutti quanti, proprio per quel riconoscimento come membro osservatore non permanente dell'Assemblea delle, sì, Nazioni Unite. Perché l'UNESCO ha avuto i fondi tagliati per questo motivo da parte di Stati Uniti e Canada, perché la paura per esempio di Israele di essere portato al Tribunale Internazionale Permanente per crimini di guerra, perché questo significa anche moderazione della posizione di forza che finora Israele ha nei confronti dei palestinesi. Cioè mettere sullo stesso piano due stati è ben diverso del mettere a confronto uno stato e un popolo. Chiarissimo. Paola, tu ci stai lasciando con una domanda, io faccio lo stesso e ti vorrei telegrafica su questo, perché adesso voltiamo la pagina e andiamo in Egitto. Siamo davvero sull'orlo di una guerra civile? In Egitto? Sì. Stavolta io, che sono sempre un ottimista, ho paura di sì. Grazie Paola Caridi, buona giornata, buon lavoro. A te, grazie. secondi, come preannunciato, voltiamo pagina e andiamo al Cairo. Hospitals are reporting more than 100 people have been killed in Egypt's mass demonstrations. Tens of thousands of opposing protesters are clashing with more than 1500 people injured. E questo che sentite sono i drammatici suoni, le drammatiche voci che venivano dallo scorso weekend, un weekend di sangue, e per oggi è stata convocata una nuova manifestazione dei sostenitori di Pro Morsi. Ugo Tramballi, buongiorno, Sole 24 Ore. Buongiorno. Ti giro la stessa domanda che ho fatto a Paola Caridi, tu in realtà l'hai già scritto proprio durante quegli scontri: siamo sull'orlo di una guerra civile, quanto è possibile evitarla secondo te? Sì, non ho sentito cosa ha detto Paola riguardo il processo di pace israelo-palestinese, ma ho sentito l'ultima domanda sull'Egitto e sono abbastanza d'accordo, nel senso che tutto fa credere, dai comportamenti, dalle frasi, dalle parole, tutto lascia credere che i militari vogliano chiudere con i fratelli musulmani, non vogliono semplicemente arrestare, vogliono eliminare, sradicare i fratelli musulmani, metterli fuori legge, e credo che i fratelli musulmani lo abbiano perfettamente capito ormai, visto che hanno sparato contro di loro all'altezza d'uomo. Certo. Questo significa che per la prima volta, appunto, anch'io sono sempre stato ottimista, c'è il rischio della guerra civile, anche perché tutto sommato l'Egitto non è per la sua storia, per quello che è, non è l'Algeria, non è la Libia, non è nemmeno la Siria, però certamente ancora un tentativo di dialogo non è stato seriamente aperto. Ecco, chi sta tentando di aprire questo dialogo è Catherine Ashton dell'Unione Europea, che si è incontrata per due lunghe ore in una località segreta con il deposto presidente Morsi. C'è stretto riservo su quello che si sono detti, però, come dire, per speculare, è possibile che abbia detto per favore di ai tuoi di tenere un profilo basso, sennò qua si finisce in un altro bagno di sangue? Che idea ti sei fatto di questo incontro? Fra l'altro, che avviene in una cornice veramente bizzarra, perché dobbiamo pensare che Mohamed Morsi non ha potuto nemmeno vedere i suoi familiari, però ha visto Catherine Ashton. Sì, come europeo e come convinto europeista sarei felicissimo se l'Unione Europea risolvesse una crisi di questo genere. Non ci scommetterei, come dire, il mio fondo pensione su questo, ecco, nel senso che ho paura che non siamo così autorevoli da convincere i fratelli musulmani e i militari a farlo. Certo, i fratelli musulmani devono convincersi, come avrebbe dovuto convincersi già Morsi prima del golpe, perché di golpe parliamo, certo. Non stiamo a parlare certamente di una rivoluzione popolare, i giovani Tamaruz sono stati semplicemente degli strumenti, non so se sia meglio per loro essere stati strumenti consapevoli o inconsapevoli, cioè in quale dei due casi fanno la figura peggiore, però insomma di golpe parliamo, avrebbero dovuto capire che la situazione stava cambiando, ma i fratelli musulmani non hanno mai dimostrato una grande elasticità negoziale, ma i militari non sono da meno, i militari dalle dichiarazioni che hanno dato, da quello che il generale Sisi ha detto, mi pare, alla signora Ashton, a Lady Ashton, anzi, si è piuttosto deciso, cioè oramai noi, la nave è partita e noi non la fermiamo finché non raggiungiamo il nostro obiettivo, e temo, ribadisco, che il loro obiettivo sia proprio quello di sradicare i fratelli musulmani dalla mappa politica dell'Egitto. Ecco Ugo, posso farti scommettere il tuo fondo pensione su un'altra domanda, su un altro ruolo diplomatico? Abbiamo parlato dell'Europa, parliamo di Washington, che finalmente diciamo che per i detrattori, per chi puntava il dito su questo immobilismo della Casa Bianca, che ieri finalmente ha detto che in Egitto si è fatto un passo indietro verso la democrazia e ha preso posizione. Forse il cambiamento da parte della politica estera di Obama verso l'Egitto, si prende posizione più nettamente? Ma leggendo anche tanti commenti di queste settimane, tanti interventi, cioè questo sempre molto chiesto sul fatto che l'assenza degli Stati Uniti, la mancanza di presenza degli Stati Uniti, la mancanza di una politica, in realtà se gli Stati Uniti avessero avuto una politica sarebbero stati criticati per essere i soliti colonialisti. Ovviamente gli Stati Uniti hanno una politica più attenta a quello che succede effettivamente sul campo, e certamente gli Stati Uniti da un lato hanno i militari sono i loro alleati naturali da sempre, i militari sono quelli ai quali loro danno direttamente 1,3 miliardi di aiuti ogni anno senza passare per il bilancio dello Stato egiziani intendo, sì, e garantiscono la navigabilità del canale di Suez, garantiscono la continuità degli accordi di pace tra Egitto e Israele, però gli Stati Uniti si rendono anche perfettamente conto che i fratelli musulmani sono quelli che hanno vinto le elezioni e che di questo e che di golpe parliamo. Sui fratelli musulmani gli Stati Uniti come l'Unione Europea avevano puntato l'anno scorso semplicemente perché i fratelli musulmani avevano vinto le elezioni e quindi l'idea, l'ipotesi che i fratelli musulmani potessero, certamente non in un anno ma nemmeno in una legislatura, col tempo diventare una specie di democrazia cristiana tedesca dopo il nazismo, ci avevamo puntato tutti. Sì. Senti Ugo, fra l'altro adesso via Twitter, prima delle agenzie, Egypt Independent sta twittando che vi sarebbero 18 persone ferite in scontri tra supporter di Morsi e cittadini a Ismailia, e questo diciamo è già un nuovo brutto segnale per una giornata che potrebbe essere molto delicata e rovente. Quanto sei ottimista sul ruolo dei militari? Parlo proprio della piazza, abbiamo visto il bagno di sangue dello scorso weekend. Secondo te potrebbero, abbassare i fucili e tenere un profilo un po' più basso? Perché arrivare allo scontro frontale, insomma, c'è tutto un circuito mediatico che è lì pronto, no, a raccontare quello che può succedere. Sì, io voglio pensare che con Lady Ashton ancora al Cairo, comunque Lady Ashton appena partita dal Cairo, i militari non si mettano di nuovo a sparare all'altezza d'uomo, però stiamo parlando dei militari, la cultura politica dei militari a qualsiasi latitudine è mediocre, una delle grandi promesse delle primavere arabe in Egitto ma come anche negli altri paesi era proprio quella di finalmente riportare i militari che governavano da 70 anni questi paesi, governano sfortunatamente da 70 anni questi paesi, riportarli nelle caserme e metterli sotto il controllo del sistema politico che viene eletto regolarmente dal popolo. Invece questo non è avvenuto, i militari continuano a mantenere il potere e io temo che appunto, cioè, il problema è che da un lato i militari non sono ancora assolutamente disponibili a nessun compromesso, ma dall'altro i fratelli musulmani ugualmente, anche perché l'Islam, ritorna in loro appunto l'istinto originale, quello del martirio, e che quindi ci troviamo di fronte a due elementi, probabilmente gli unici due elementi capaci di governare l'Egitto, cioè o l'Islam politico che ha vinto l'elezione, sì, o i militari, che forse sono l'unica, in un paese ancora lontano dalla democrazia, forse l'unica forza che garantisce l'ordine e l'equilibrio del sistema, non lo so, sì, però insomma ecco, ci troviamo di fronte a proprio i due unici sistemi che potrebbero governare il paese, che invece sono, anziché pronti a collaborare, sono antitetici l'uno all'altro. Grazie Ugo Tramballi, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. Nessun luogo è lontano. Facile capire dove vi porto adesso, da Washington poi al Cairo e adesso andiamo a Londra, perché una notizia riportata dal Guardian ci ha parecchio incuriositi. Una nuova campagna che è stata promossa appunto a Londra dal Ministero dell'Interno con un camioncino con una grossa immagine. Se avete internet sotto mano, avete Twitter, andate su Nessun Luogo Lontano _24, su Nessun Luogo 24, perché abbiamo ritwittato anche l'immagine. L'immagine è relativa a quella che è l'immigrazione irregolare nel Regno Unito. E sono delle manette raffigurate e testualmente si dice: andatevene a casa oppure sarete arrestati. Insomma, tornatevene a casa è uno slogan piuttosto duro. Questa campagna ha ricevuto immediatamente alcune critiche, perché riecheggia quello che erano certe graffitate, certi slogan degli anni 70, degli anni 80 contro gli immigrati, ad esempio i pakistani, appunto nella Londra di quegli anni. Quindi una campagna controversa che però invece secondo David Cameron sta già dando i suoi frutti. Per capirne di più abbiamo raggiunto Andrew Sparrow, che è editorialista politico del Guardian, a cui per prima cosa ho chiesto di delinearci i contorni di questa campagna. For many years now, British governments have had a policy of encouraging illegal immigrants in the country. Andrew Sparrow del The Guardian racconta come da parecchi anni il governo britannico stia incoraggiando gli immigrati irregolari a ritornare al proprio paese d'origine pagando il volo. La cosa diversa questa volta è che si tratta di una campagna pubblicitaria molto aggressiva, dice Sparrow, che include questo slogan "Go home", andate a casa, che rievoca un linguaggio razzista che si usava negli anni 80 e 90 contro gli immigrati. E si trattava allora di slogan scritti sui muri come "Pakis go home", pakistani tornatevene a casa, e altre frasi del genere. Perciò molte persone che vivono a Londra, specialmente quelle appartenenti alla comunità di origine africana, hanno visto questa campagna, hanno visto in questa campagna echi di razzismo, visto che era davvero un luogo comune di Londra una generazione fa. And concluded that they're reminiscent of the racist slogans and graffiti that used to be commonplace in London a generation ago. Sempre a Andrew Sparrow ho chiesto quanto secondo lui vi fosse, come dire, una deliberata scelta di usare questi termini. Ascoltiamo. That's a very good question, and we don't no one is saying, e dice, beh, è una bella domanda, nessuno può dire con certezza se si tratti di una scelta precisa e consapevole, ma le persone non hanno molta fiducia nei metodi del governo in quella che è la materia dell'immigrazione. In Gran Bretagna abbiamo un governo piuttosto freddino, dominato dal partito conservatore, che ha tenuto una linea molto dura e aggressiva, specialmente negli ultimi anni. Dice Sparrow, da qui a 2 anni ci saranno le elezioni, è abbastanza facile pensare che il partito stia pensando a come essere rieletto, e sottolinea come hanno appena assunto un consulente elettorale australiano che ha una grande esperienza nell'utilizzo del tema caldo dell'immigrazione proprio in campagna elettorale. A track record of using immigration as an issue in elections. Infine, il governo, dice Sparrow, non ha mai dichiarato apertamente che si tratti di una strategia politica precisa. Però, insomma, dice il giornalista del Guardian, ci sono indizi molto forti che i toni della campagna siano stati appositamente scelti in vista delle prossime elezioni. The thinking was, so we can only speculate, but there are very strong suspicions that the desire to exploit these fears about race was part of the factor for running the campaign. E poi a Sparrow ho anche chiesto alla fine qual è il vantaggio di questa campagna, cioè se vi è stata questa sensibilizzazione, chiamiamola così, e se vi sono stati rientri volontari, e non si hanno notizie. Gli unici dati certi quali sono? Che la campagna è costata 10.000 sterline, perché 2 van hanno girato per alcuni quartieri di Londra, in più sono stati distribuiti dei volantini, quindi 10.000 sterline di costo. Tenete conto che ogni rientro forzoso costa alle casse dello Stato 15.000 sterline, mentre un immigrato irregolare che decide volontariamente di costerebbe alle casse britanniche semplicemente 700 sterline. Da ciò, insomma, traete voi le conclusioni. E nel far questo ho chiamato anche Andrea Mammone, docente storico dell'Europa contemporanea alla Royal Holloway University of London. Professor Mammone, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, è d'accordo con l'editorialista politico del Guardian che vede questa campagna che, ripeto, è confinata in 6 quartieri di Londra e con una, come dire, anche mediatizzazione eccessiva, se vogliamo, rispetto a quello che è la reale portata, però il governo dice che si potrebbe ampliare a tutto il Regno Unito. È d'accordo che si stiano scaldando i muscoli in chiave preelettorale? Sì, sono anche io fondamentalmente d'accordo. In realtà ci sono già delle frizioni nel governo, perché questo è un governo di coalizione con i liberal democratici. Qualche giorno fa un ministro liberal democratico aveva detto che questa era una campagna abbastanza stupida. Immediatamente il giorno dopo un portaparola di Cameron ha detto che potrebbe essere, come lei diceva, estesa all'intero Regno Unito. Io penso seriamente che ci sia una questione elettorale forte, e secondo me il tema dell'immigrazione va legato in maniera forte con quello dell'Europa. Non devo dimenticare che in Inghilterra negli ultimi anni c'è stata una crescita di partiti di estrema destra, in particolare il BNP e l'English Defence League, che battono forte il tema ovviamente dell'immigrazione, soprattutto islamica, ma non solo. Inoltre un partito che è in forte crescita è lo UKIP, che è un partito fondamentalmente anti-Europa, anti-Unione Europea. Stranamente questo partito cresce e in maniera poco sorprendente Camerun decide di fare un referendum pro o anti Europa, sì. Bisogna vedere dai punti di vista che uno legge questo, quindi le due questioni sono molto a braccetto. Ci sarebbero questioni più ampie che sono qual è il ruolo della Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea, all'interno dell'Europa, sì. Però io credo che le questioni siano proprio fortemente elettorali. Sì. Peraltro l'immigrazione è una formidabile leva elettorale, lo vado ripetendo da tanto. Un ascoltatore ci solletica invece sempre sul tema dicendo: se facciamo una cosa simile in Italia, ecco i fascisti, vergogna, scandalo, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, c'è stata una levata di scudi anche in Gran Bretagna, no, professor Mamone? Poi lei, peraltro, italiano, che vive in Regno Unito, mi sembra abbia un punto di vista privilegiato in questo senso per analizzare la cosa. Sì, per fortuna ancora sono tra quegli immigrati non illegali, ho un permesso regolare di soggiorno, sono un cittadino dell'Unione Europea, non ho bisogno di nulla. Però ovviamente la questione sì è più ampia. Se ci fosse stato in un altro paese come l'Italia, da parte di un governo, diciamo la verità, di centrodestra, ci sarebbe subito stata una levata di scudi, ma come c'è stata quando la Lega Nord ha cercato di fare delle proposte simili. In Inghilterra ci sono delle levate di scudi che sono all'interno del governo stesso, come dicevo, cioè non è solo il Guardian o il partito laburista. Cioè, in realtà c'è una protesta contro questo tipo di cose, anche perché in realtà, come diceva giustamente Sparrow, è impossibile dire qual è l'impatto reale, semplicemente perché il governo ha speso 10.000 sterline per due van che giravano, certo. Ma adesso la pubblicità è molto più ampia, per cui è difficile dire se i rimpatri ci sono stati per i due van o semplicemente perché la notizia è stata ripresa da tutti i media. Ovviamente c'è una questione, come dicevo prima, che è quella cosa dobbiamo fare con la Gran Bretagna. Sì. Cosa dobbiamo fare con la Gran Bretagna in questo contesto di partiti alla destra del partito conservatore che spingono su certi temi. Adesso alle prossime elezioni non ci sarà una coalizione, perché il partito, i Liberal Democratici stanno scendendo in maniera forte, lo UKIP, questo partito anti-Europa, sta crescendo in maniera fortissima, per cui il partito conservatore sa benissimo che deve recuperare un certo tipo di elettorato e spinge in maniera demagogica su determinati temi. Adesso il problema economico forte è quello di una Gran Bretagna al di fuori dell'Unione Europea, una Gran Bretagna senza molti immigrati funzionerebbe alla stessa maniera. E questa, anche alcune fonti della FIPI dicono no. Certo, questa è una domanda da milioni e milioni di sterline e noi ci lasciamo su questa. Professor Mamone, grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Vedremo questo piccolo esperimento di leva mediatica elettorale se funzionerà. Mancano 20 secondi, allora i titoli di coda. Non mi resta che ringraziare Mirella Lucchetti per aver confezionato con me questa puntata di Nessun Luogo, Roby Scaltriti che le ha dato musica e ritmo, voi per essere stati all'ascolto. Ci risentiamo con la replica alle 20:30 questa sera e poi domani alle 13:15 quando Nessun Luogo sarà lontano.